Ed eccoci giunti, cari ascoltatori, al nostro consueto appuntamento col santo curato d'Ars, giunto ormai alla 58esima puntata. Ebbene, facendo passare una per una le sue virtù più caratteristiche, a mo' di sintesi finale della sua vita eroica, ricorderete che abbiamo già considerato la sua eroica umiltà e il suo eroico amore alla povertà. Il nostro santo conduceva una vita di povertà estrema, e questa naturalmente per scelta volontaria, non tanto per necessità, vero? Per necessità forse lo fu nei primi tempi, quando era appena arrivato ad Ars, dato che in questa borgata nessuno più si interessava del prete della Chiesa. Ormai la popolazione era del tutto scristianizzata, vero? Per cui le necessità del sacerdote erano del tutto ignorate dal popolo di Dio. E certo per il nostro santo ciò non costituì un grave inconveniente, anzi, questo abbandono in cui venne lasciato nei primi tempi fu considerato da lui un utile esercizio di carità eroica e di eroica dedizione al suo popolo, suo gregge. Ricorderete cosa dice San Paolo in Romani 5? Dice che Dio dimostra il suo amore verso di noi perché? Perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5,8. E prima ancora aveva detto che forse ci può essere qualcuno che ha il coraggio di morire per una persona da bene. Però a girare il mondo non si trova nessuno disposto a morire, a dare la sua vita per i cattivi, per i nemici, per chi gli è nemico. Ecco, solo Dio ha avuto questa forza e questo coraggio. Solo Cristo. Cristo e con Cristo i suoi migliori seguaci, fra i quali dobbiamo senz'altro considerare anche il curato d'Ars. Ecco, il curato d'Ars all'inizio ha accettato la povertà e l'abbandono in cui veniva ingiustamente lasciato dal popolo, proprio come atto di offerta, come atto di donazione a Dio a favore del suo popolo. Ecco, però sappiamo che poi le cose sono cambiate, vero? Anzi, sono molto cambiate. E sappiamo che se Dio si è servito di lui per convertire mezza Europa, prima di tutto si è servito di lui per convertire il suo piccolo paese, il suo piccolo gregge, cioè le famose 230 anime, tante ne contava questa piccola borgata, di cui il curato si sentiva anzitutto responsabile davanti a Dio. Quindi Don Vianney avrebbe potuto benissimo accettare qualche aiuto materiale da parte dei suoi parrocchiani, i quali volevano fare a gara ora per aiutarlo e sostenerlo, quasi per rifarsi, no, del loro totale assenteismo precedente. Ma il fatto è che il loro parroco non era affatto disposto ad accettare questi aiuti. E badate, non già per superbia o per una certa scontrosità o ritrosia innata, ma proprio perché voleva praticare la povertà in grado eroico. Per cui noi, se ricordate, abbiamo già considerato per esempio il suo modo di vestire, no? le sue talari, i suoi rattoppi, lo stato di decadenza in cui giaceva la sua casa, cioè la casa canonica, l'estrema essenzialità degli oggetti di suo uso, il suo rapporto col denaro, eccetera. Ecco, forse qualcuno di fronte a queste cose rimarrà un po' perplesso, vero? Per esempio, sarà rimasto perplesso di fronte ai suoi ripetuti dinieghi di apportare riparazioni alla casa canonica, tutta cadente. E rimaniamo perplessi perché? Perché, prima di tutto, i lavori gli venivano offerti gratis, a totale carico del sindaco. E secondo, rimaniamo perplessi perché in effetti una casa canonica non è proprietà del parroco, vero? Ma della curia vescovile, della curia diocesana. Quindi si tratta di un bene che ora serve a lui, ma che prima di lui ha già servito ad altri e dopo di lui servirà ai suoi successori, vero? Quindi, a rigor di termini, il curato d'Ars avrebbe dovuto interessarsi della canonica e avrebbe dovuto tenerla in ordine, in buono stato. Ma che volete? Io penso che i santi non vadano sempre giudicati in base a criteri oggettivi e razionali, vero? Ma penso che occorra uno sforzo di immedesimazione nella loro mentalità e nelle loro intenzioni. Ecco, noi sappiamo per esempio come il curato d'Ars fosse sollecito invece per la Chiesa, cioè per la casa di Dio, e come non badasse a spese per abbellirla e per arredarla nel migliore dei modi. Quindi la sua intenzione era senz'altro buona, anzi ottima. Evidentemente voleva mettere a confronto la dignità di Dio con la dignità molto elevata, ma infinitamente più bassa, dell'uomo di Dio. E questo penso che sia uno schiaffo morale per molti di noi, che invece fanno esattamente il contrario, cioè non sanno più cosa fare per abbellire la loro casa, mentre lasciano in completo abbandono la casa di Dio, il Tempio di Dio. Comunque a questo punto, carissimi, intendo senz'altro voltare pagina e passare dall'amore verso la povertà all'amore verso i poveri. Sappiamo che Gesù ha sempre considerato i poveri materialmente e spiritualmente, o entrambe le cose, li ha sempre considerati come la porzione eletta della Chiesa. Ed è proprio ai poveri che viene annunciata la buona novella, l'abbiamo letto stamattina nel Vangelo. Quindi la Chiesa deve avere grande considerazione dei poveri. Non solo non li deve emarginare o sottovalutare, ma li deve anzi molto apprezzare. Li deve apprezzare proprio come le colonne della comunità, come quelli che in definitiva tengono in piedi tutto l'edificio, Come in quelle comunità religiose dove alcuni fanno sfoggio di titoli e di carismi e di incarichi prestigiosi, ma sotto sotto a guardar bene chi veramente sostiene la comunità? Non sono forse per esempio le suore ammalate, non è forse la cuciniera, l'infermiera, la sacrestana, la portinaia? Ecco, così fu il curato d'Ars, un povero che amava i poveri, che prediligeva i poveri. Il suo cuore, ha detto la contessa di Garé, si apriva a tutte le miserie. Egli amava teneramente gli infelici, per i quali si spogliava volentieri di quanto aveva. E sappiamo che per avere qualcosa in più da dare in elemosina vendeva certe volte anche quello che era di sua proprietà, per esempio i mobili, la biancheria e ogni più piccolo oggetto. Ecco, la sua carità era quindi inesauribile. Qualche volta, secondo la testimonianza di Fra Atanasio, prima dell'alba aveva già elargito più di 100 franchi, vale a dire una cifra enorme. Chiamava la tasca della sua veste, nella quale metteva il denaro destinato all'elemosina, la chiamava tasca a spola, perché il denaro che vi era riposto passava presto nelle mani dei poveri. Alla sera contava il denaro che gli rimaneva e quando non aveva più nulla faceva un debito, cioè i soldi se li faceva prestare, perché non voleva correre il rischio di lasciar partire un povero senza il soccorso della sua carità. Però attenzione, badate, non distribuiva il denaro a caso, anzi faceva l'elemosina con molto discernimento, guidato dall'intuizione, e di solito si dimostrava più generoso verso coloro che si trovavano in maggiore necessità e in maggiori ristrettezze. Pensate, negli ultimi anni della sua esistenza pagava di sua mano l'affitto di almeno 30 famiglie che si trovavano ad Ars o nei paesi vicini. E ogni anno verso San Martino diventava avaro e raccoglieva il denaro dicendo: devo pagare le mie pigioni. Inoltre, molte famiglie che si trovavano in condizioni precarie ricevevano da lui regolarmente legna e farina. Per esempio, una madre di Villefranche per lungo tempo venne ad Ars ogni settimana chiedendo pane per i suoi bambini. E dobbiamo anche dire, carissimi, che egli sapeva trattare le persone a seconda della sensibilità, della suscettibilità di chi lo avvicinava. Per esempio, ad alcuni venuti ad Ars per aprire un piccolo commercio, anticipò il denaro e quando si parlava di restituirglielo diceva: io non faccio prestiti, ma regalo. Non ho forse ricevuto per primo dal Signore? E sappiamo che nel suo armadio non gli mettevano che poche camicie per volta, perché se fosse venuto diversamente avrebbe distribuito tutto subito. E dato che lui, che stupido non era, si era accorto di questa astuzia, diceva a Caterina: dovete portarne un po' di più. E vi chiederete: qual è la ragione? Semplicissimo, faceva salire i poveri fino alla sua camera e là essi si cambiavano. D'inverno procurava loro un buon fuoco e così, come nota Caterina, mentre veniva riscaldato il loro corpo, il santo provvedeva anche a riscaldare la loro anima al fuoco dell'amore divino. Sappiamo di certo che pie persone dei dintorni si sarebbero volentieri fatte dispensatrici di elemosine in suo nome, vero? Ma gli è che i poveri domandavano lui personalmente, lui che li chiamava col nome di amici e metteva in questa parola tale accento di cordialità che se ne partivano sempre molto consolati. E il curato diceva: come si è felici quando vengono i poveri. Se non venissero si dovrebbe andare a cercarli e non se ne ha sempre il tempo. Per cui approfittava di ogni incontro per distribuire loro l'elemosina. Un giorno, mentre andava a spiegare il catechismo all'orfanotrofio, incontrò un povero che aveva le scarpe in cattivo stato, per cui gli diede le sue, rimanendo con le sole calze, che cercò di nascondere sotto la veste. Un'altra volta, dice Gianna Maria, sua lavandaia personale, gli avevo portato nella camera un paio di scarpe nuove e con mia meraviglia la sera me lo vidi innanzi con un paio di scarpe vecchie e rotte che avevo dimenticato di portar via dalla sua stanza. Per cui gli dissi scherzosamente: avete già regalato via le altre? Forse, rispose. Sentite ora questo fatto. Nel gennaio del 1823, alla missione di Trevoux, durante la quale egli confessò quasi giorno e notte, i confratelli raccolsero la somma necessaria per comprargli un paio di pantaloni e fecero acquisto di un buon velluto, augurandosi che il nostro curato se ne sarebbe servito per lungo tempo. Ma attenti cosa succede. Un sabato sera il santo, ritornando a piedi alla sua parrocchia, incontrò un povero tremante dal freddo e insufficientemente vestito. «Aspettate un momento, amico mio», gli disse Don Vianney, e scomparso un istante dietro una siepe, ricompariva tosto tenendo in mano i suoi pantaloni, che il povero infilò svelto svelto. Ebbene, pochi giorni dopo, alla canonica di Trevoux, si discorreva di quei calzoni e si domandò al santo se fosse contento del dono che gli era stato fatto. «Sì», rispose, «mi è servito molto bene. L'ho dato in prestito a un povero, a fondo perduto». Sappiamo anche che di preferenza aiutava una povera vecchietta cieca e inferma che abitava vicino alla chiesa. Vi chiederete perché questo? Ecco, semplicemente perché poteva fare l'elemosina senza essere riconosciuto. Si avvicinava con discrezione, deponeva nel suo grembiale l'elemosina, in vivere o in denaro, e si ritirava senza dire una parola. E la povera inferma talvolta, e pensando si trattasse di una sua vicina, lo ringraziava così: «Grazie, buona signora, tante grazie!» E il buon curato si allontanava ridendo di cuore. Ma dovete sapere, carissimi, che la sua beneficenza si estendeva anche più lontano, e in questo lo aiutavano dei fidati intermediari ai quali si raccomandava. Per esempio, Maria Filiat, bottegaia di Ars, così depose al processo di beatificazione, dice: «Sono andata fino a Lione, mandata da lui, per consegnare 100 franchi a una famiglia bisognosa. Un giorno gli sembrava di aver dato troppo poco a una persona povera, per cui mi incaricò di andare a portarle altri 15 franchi, e di commissioni del genere ne compii molte, anche nelle parrocchie vicine». Dobbiamo dire inoltre, carissimi, che i poveri di passaggio a volte si dimostravano anche un po' esigenti, vero? Pretenziosi. Ma comunque ricevevano da lui ugualmente un'accoglienza benevola. Per cui Don Toccanier, il coadiutore, un giorno osò fargli osservazione: «Signor curato, vi si inganna certamente, ci rimettete dando con larghezza a tutti quelli che si presentano». Risposta: «Oh, quando si dà a Dio non ci si inganna mai». Altro esempio. Una vecchia pensionante della Providence aveva rubato biancheria all'orfanotrofio e denaro alla sacrestia, per cui appena scoperta fu arrestata e condannata alla prigione. E l'intervento di Don Vianney per risparmiarle questa umiliazione purtroppo riuscì vano. Ebbene, una volta uscita di prigione, implorò subito la carità del santo e ottenne con abbondanza vesti e soccorsi. Per cui, carissimi, dopo aver ricordato questi fatti, è facile immaginare quale venerazione godesse Don Vianney tra i poveri che lo circondavano appena uscito di casa. E possiamo senz'altro dire che Ars era diventato il ritrovo di tutti gli indigenti. E vi furono dei parrocchiani che, stanchi di ospitare questi infelici, a dire il vero non sempre del tutto raccomandabili, avevano manifestato il proprio disappunto al sindaco, lamentandosi del curato. E il conte di Garay, il sindaco, da parte sua, raccolse queste voci e ne fece parola all'interessato, il quale si accontentò di rispondere così: «Non ha forse detto nostro signore che avremmo sempre avuto dei poveri in mezzo a noi?» E insistette perché nessuno venisse allontanato. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai un simile comportamento. Beh, mi pare chiarissimo. La ragione del suo comportamento sta nel fatto che egli aveva verso i poveri una stima soprannaturale. Quella stima soprannaturale ispirata dal Vangelo, cioè vedeva in essi Gesù Cristo stesso, che ha esaltato la povertà. E difatti nella sua predicazione si compiaceva di raccontare qualche fatto della vita dei santi, dal quale appariva che Cristo si era nascosto talvolta sotto le vesti di persone indigenti. E non solo quella di San Martino, ma per esempio si scioglieva in lacrime ogni volta che ricordava come San Giovanni di Dio, un giorno, scoprendo delle cicatrici nei piedi di un povero che soccorreva, avesse esclamato: «Ma siete dunque voi, Signore?» Ed ecco, carissimi, un ultimo episodio che porterà nuova luce sulla considerazione di Don Vianney per la povertà. Un giorno d'estate, prima di mezzogiorno, mentre catechizzava la folla dei pellegrini, seduto alla sua piccola cattedra, osservò un povero, carico della sua bisaccia e sostenuto da due grucce. era giunto sulla soglia della chiesa e si sforzava invano di farsi strada tra la folla dei pellegrini. Don Vianney, che seguiva i suoi tentativi inutili, improvvisamente si alzò, attraversò la folla e si avvicinò al mendicante. E siccome non rimaneva più alcun posto libero in tutta la navata, pensava dove condurlo. Beh, un santo non si scoraggia per così poco, vero? Per cui cosa fa? Fa salire il povero sulla cattedra e lo mette a sedere sulla sua sedia. Quindi, stando in piedi, continua la spiegazione. E qui a questo punto il biografo dice che questo spettacolo sembra tolto dalla vita del poverello d'Assisi, d'accordo. Ma secondo me, carissimi, è anche un grosso monito verso la nostra generazione, vero? Ho visto molte volte salire delle persone anziane e vistosamente in difficoltà su treni assiepati dove stavano comodamente seduti molti giovani. Ma difficilmente ho visto qualcuno cedergli il posto. E anche in quell'occasione, nella chiesa di Ars, era senz'altro questo il messaggio del santo curato. È possibile che non ci sia nessuno disposto a stare in piedi per far sedere questo poveretto? Fratelli miei, direbbe San Giacomo, non mescolate la vostra fede a favoritismi personali. Perché se entra un ricco lo fai sedere comodamente e invece se entra un povero lo lasci in piedi? In questo modo non diventate voi forse giudici dai giudizi perversi? Giacomo 2:1-4. Speriamo proprio, carissimi, che queste cose scompaiano dalle nostre comunità. Si celebra la festa di Sant'Agnese, vergine e martire, che come noto è la patrona della gioventù femminile. E vogliamo subito, carissimi, come sempre, dedicarci alla liturgia della prossima domenica, che, vi dico subito, sarà ancora una volta una liturgia differenziata. Il rito romano prosegue regolarmente il tempo ordinario dell'anno, quindi sarà la terza domenica del tempo ordinario dell'anno, mentre il rito ambrosiano celebra domenica prossima la festa della Sacra Famiglia, ecco un po' a conclusione di tutte le feste natalizie, e proprio perché così abbiamo modo di meditare in modo specifico sulla famiglia, un po' al di fuori delle feste natalizie, anche se ancora molto vicini. Ora daremo lettura della parola di Dio che riguarda la liturgia romana, le tre letture della prossima domenica che verranno proclamate in rito romano. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 8, dal verso 23 in avanti. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano e il territorio dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino. Parola di Dio. Beh, avete sentito che questa lettura già riguarda il brano evangelico, dove la profezia che abbiamo sentito nel profeta Isaia si realizza, nel senso che Gesù inizia il suo ministero proprio in questo territorio di Zabulon e di Neftali, dove appunto il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E ora dedichiamoci, carissimi, subito alla seconda lettura, che è tratta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, capitolo 1, versetto 10 in avanti, che ci esorta ad essere uniti fra noi. Ecco, io penso che sia una raccomandazione che non ci verrà mai ripetuta abbastanza, essere uniti fra noi a ogni livello, a livello famiglia, a livello comunità, a livello società. E penso che questa esortazione valga in modo particolarissimo per le comunità religiose e per i sacerdoti. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie fra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. E ora, carissimi, uniamoci tutti nel canto dell'Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù predicava la buona novella del regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora ascoltiamo questo bellissimo brano evangelico che ci descrive i primi passi di Gesù nella vita pubblica. Potremmo intitolarlo Gesù, novello sacerdote. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal verso 12 al verso 23. Gesù, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Ecco ora un breve commento, carissimi. Vi ho già detto che mi sono proposto di accorciare di un terzo questi interventi che faccio dallo studio per agevolare maggiormente gli interventi dei sacerdoti, che preghiamo pure di essere più brevi. E difatti con questo sistema ogni giovedì ci sono molte, molte più telefonate di un tempo. Ecco, adesso qualche breve commento. Si direbbe che il Vangelo di oggi, almeno nella prima parte, ci descrive proprio Gesù novello sacerdote. Ecco, in effetti sono proprio i primi passi della sua, diciamo, carriera di Messia. E allora qui si potrebbe tentare, anzitutto, di indicare un po', diciamo, la spiritualità del novello sacerdote. Ecco, se è vero che Gesù è il grande modello cui deve ispirarsi il prete, Allora vediamo come Gesù ha vissuto queste sue prime esperienze apostoliche. Ecco, naturalmente, carissimi, in questo discorso possiamo comprendere un po' tutte le categorie di persone, non solo i sacerdoti, vero, tutte le categorie di cristiani, per esempio gli sposati, i novelli sposi, quelli che stanno mettendo le basi di una nuova famiglia. Ecco, la cosa che più mi colpisce in questo brano evangelico è una frase apparentemente innocua. Cioè, quando dice a un certo punto, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao. Ecco, una frase, come ripeto, apparentemente innocua, che però nasconde sicuramente un piccolo grande dramma. Vale a dire il dramma umano di due persone, madre e figlio, Gesù e Maria, che avvertono in modo acutissimo lo strazio della separazione. Lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao. Ecco, Gesù dopo 30 anni di vita casalinga lascia la mamma che oltretutto è già vedova, la lascia sola per seguire la sua vocazione, per compiere la volontà di Dio, la volontà del Padre. E pensiamo che questo sia costato molto a Gesù, ma anche alla Madonna, a entrambi. E sì, perché Gesù e Maria, data la loro eccelsa umanità, oltre che la loro eccelsa santità, Gesù e Maria erano sicuramente due persone molto sensibili, che avvertivano in pieno, e forse più di noi, più di tutti, questo strazio della separazione. Ma che volete, quando si tratta di ubbidire la volontà di Dio e di seguire la propria vocazione, nulla deve frenarci, nemmeno questo distacco doloroso dagli affetti più cari. Ecco, questo mi sembra, carissimo, un primo elemento, un primo pilastro di una spiritualità del novello sacerdote, o al limite dei novelli sposi, o dei novelli religiosi. Cioè, vivere il distacco dagli affetti più cari che abbiamo come sacrificio, come olocausto da presentare al Signore per la sua gloria, anzitutto, e poi per il bene delle anime cui siamo mandati, o per il bene della famiglia che formiamo, degli eventuali discendenti, degli eventuali figli che nasceranno, eccetera. E qui, carissimi, bisognerebbe fare un discorso differenziato, vero, per novelli sacerdoti da una parte e per novelli sposi dall'altra, o al limite anche per novelli religiosi. Vi basti questo, che i novelli sacerdoti devono vivere questo distacco proprio come consacrazione a Dio e al suo popolo, diciamo come consacrazione alle anime. E avete notato cosa dice Gesù oggi agli apostoli? Dice, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ecco, di uomini, sono gli uomini il grande assillo della Chiesa e quindi il grande assillo del prete. Gli uomini e le donne, naturalmente. Paolo VI ha detto, come sapete, con espressione felicissima, ha detto che la Chiesa è specialista in umanità. Dunque anche agli apostoli, come a Gesù, viene chiesto questo sacrificio, di lasciare la propria attività, di lasciare i propri affetti precedenti per dedicarsi totalmente, con cuore indiviso, al Signore e agli uomini, alle anime. E credete pure, carissimi, che i fallimenti sacerdotali partono tutti di qui, e anche i fallimenti coniugali, Quando cioè uno perde di vista questa sua duplice consacrazione a Dio e al prossimo, e il suo sacerdozio o il suo matrimonio non lo fa ruotare tutto attorno a questa duplice consacrazione. E adesso possiamo fare una prima pausa musicale, carissimi, ascoltando un autore piuttosto sconosciuto, che però è ingiustamente sconosciuto, è un autore che è nostro collega, un sacerdote del 1600, che è stato un bravissimo compositore di musica per organo. Un nome oscuro, l'Abbé Chaumont, che è un belga, il quale, come sentirete, ci ha offerto delle composizioni molto valide, soprattutto a uso degli organisti di parrocchia, offrendo dei pezzi brevi che servono da interludio fra una strofa e l'altra dei canti che si facevano, i canti gregoriani che si facevano nelle chiese. Ecco, ascoltiamo un primo brano di questo autore, l'Abbé Chaumont. E qui vorrei presentare subito, carissimi, un secondo elemento di spiritualità del novello sacerdote. Ecco, se voi osservate bene, Gesù, per iniziare la sua attività apostolica, non sceglie un luogo prestigioso e nemmeno un luogo affollato e movimentato. Per esempio, sta lontano dalla zona dove agiva Giovanni Battista, dove Giovanni Battista predicava, battezzava. E sta pure lontano dai grandi centri religiosi della Palestina, per esempio sta lontano da Gerusalemme. Anzi, come sapete, San Luca descrive il suo cammino apostolico proprio come un viaggio verso Gerusalemme, dove lui però non andrà a mietere trionfi, ma dove andrà a morire su un patibolo, il patibolo della croce. Ecco, quindi Gesù inizia in un luogo lontano dal frastuono, preferisce una zona tranquilla, abitata solo da onesti lavoratori e da gente avvezza alla fatica. Ed è proprio fra questa gente che sceglie i primi apostoli, che sceglie, diciamo, i primi collaboratori. Ecco, direi, carissimi, che questa non fu da parte di Cristo una scelta casuale, non credo proprio, e neppure una scelta dettata unicamente da ragioni, da convenienze umane. Ma fu senz'altro una scelta che ha motivazioni assai profonde. Per cui possiamo dettare questa regola: il novello sacerdote stia il più possibile lontano dalla mischia, per il momento, e continui più che può lo stile tranquillo praticato in seminario. Ecco, il Vangelo ha bisogno di tranquillità, tranquillità da parte di chi riceve il buon seme, ma anche tranquillità da parte di chi sparge il buon seme. Poi magari, quando sono state messe delle buone basi, allora possiamo affrontare anche momenti più difficili, vero, situazioni più drammatiche. Ma occorre prima mettere delle solide basi. E Gesù non ha fatto eccezione, Anzi, direi proprio che si è fatto modello in questo senso, confermando così autorevolmente questa regola di vita. Ecco, penso quindi che il prete non deve a tutti i costi entrare nella mischia, ma deve restarne fuori il più possibile, fino a quando non vede che questa è proprio la volontà di Dio e che deve entrarci per dovere, per necessità, per un mandato che viene dall'alto. Ecco, questo è un pensiero così importante che possiamo fare subito una seconda sosta musicale, sempre con i bellissimi pezzi, le bellissime composizioni della Abbé Chaumont. E allora qui, carissimi, passerei senz'altro a un esame dei due obiettivi principali per cui Cristo chiama gli apostoli. Ecco, il Vangelo di Matteo momentaneamente non lo indica, ma se voi aprite il Vangelo di Marco 3,14 e seguente, dice che Gesù ne costituì 12 che stessero con lui, primo, e secondo, anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Ecco, queste sono senz'altro parole adatte, applicabili a ogni sacerdote, vero, non già solo ai soli sacerdoti novelli. Il Signore ci costituisce suoi sacerdoti, primo, per stare con lui, che stessero con lui. Ecco, questo è il primo grande obiettivo, il primo grande ideale della nostra vita sacerdotale, stare con Lui. E state pur certi, carissimi, che se non c'è questa intimità con Cristo, la vita sacerdotale appassisce, isterilisce e non può produrre alcun frutto. E Gesù ha detto: io sono la vite, voi i tralci, senza di me non potete far nulla. se il tralcio lo stacchiamo dalla vite, il tralcio non può più vivere, ma presto appassisce e muore, secca, ed è solo buono da essere bruciato nel fuoco. Ecco, se questo vale per tutti i battezzati, vale in modo specifico per i sacerdoti, vero? E l'intimità con Cristo direi che va vissuta a ogni livello. Anzitutto a livello di preghiera, quindi direi di dialogo continuo col Signore, ma poi anche a livello di ascolto, ascolto della sua parola. Il prete deve sentirsi in un continuo stato di formazione, formazione permanente. Il prete deve sentirsi continuamente come un bambino bisognoso di chiarimenti, bisognoso di essere istruito dal papà e dalla mamma. Per mamma intendo senz'altro parlare della Madonna. Poi l'intimità con Cristo deve essere vissuta, secondo me, anche come un desiderio continuo di incarnare Cristo. Ecco, io quando amministro i sacramenti, non solo rappresento Gesù, ma in qualche modo sono Gesù, divento Gesù, appunto perché faccio la sua parte. La Chiesa ci insegna infatti che quando è all'altare, il sacerdote agisce in persona Christi, nella persona di Cristo. E questo direi che deve formare un po' il nostro orgoglio, vero? Il nostro giusto, santo orgoglio. Perché il prete ha accesso in ogni ambiente? E ogni tanto mi guardo allo specchio e mi dico, ma tu sei uno qualunque, eppure guarda, dovunque vai ti accolgono con rispetto, quasi con venerazione, vai nella casa del ricco, hai il posto migliore, vai nella casa del povero, sei accolto con le braccia aperte. Com'è questo mistero? Eppure sei uno qualunque, guardati lì allo specchio. Ecco, il prete ha accesso in ogni ambiente, poveri, ricchi, dotti, ignoranti, proprio per questo, cioè per questa fisionomia misteriosa che porta dentro, che è appunto il carattere sacerdotale, che ha ricevuto col sacramento dell'ordine, che lo rende a pieno titolo Alter Christus. Ecco, però attenti, il Vangelo di Marco non si limita a dire perché stessero con lui, ma poi aggiunge subito che ne costituì 12 anche per mandarli a predicare, primo, e secondo perché avessero il potere di scacciare i demoni. Dunque, carissimi, l'intimità con Cristo porta necessariamente a condividere la missione di Cristo. E presto o tardi viene pure l'ora dell'azione, l'ora della semina. Il prescelto a un certo punto deve pur muoversi, deve pur andare incontro all'umanità. Anche per questo è stato scelto. E guai se non lo fa, fallirebbe miseramente e mancherebbe alla sua vocazione. È come Giona che non voleva assolutamente sobbarcarsi questa fatica e tentò più volte di sfuggire alle sue responsabilità. Anche se poi il Signore trovò modo di acciuffarlo, di prenderlo per il collo e di convincerlo ad accettare. Quindi il prete prima o poi si deve anche buttare nella mischia, certo. E sappiamo quanto il mondo stia sotto il potere di Satana e quanto Satana odi il prete e osteggi il lavoro del prete. Ma badate, carissimi, se il prete mantiene questa bella intimità con Cristo, stia pur certo che agirà indisturbato e che passerà di trionfo in trionfo, di vittoria in vittoria. Ripeto, se c'è l'intimità con Cristo, se c'è questo spirito di preghiera, di amicizia col Signore. Ecco, non è vero, carissimi, che è finita l'epoca dei miracoli, non è vero. Ve lo posso garantire, il prete è ogni giorno testimone di molti miracoli. E sì, perché Dio non è morto, tutt'altro, e lo Spirito Santo non ha smesso di agire nelle anime. Ecco, adesso facciamo una terza pausa, sempre con i brani d'organo dell'abbé Chaumont. Beh, ora un'ultima cosa che mi colpisce nel Vangelo di oggi e che cercherò di sbrigare in poche parole, dato che devo mantenere le promesse di essere breve. Gesù, caso strano, sceglie come suoi discepoli, futuri suoi collaboratori, due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, che oltretutto erano, a sentire il Vangelo di Luca 5:10, erano soci in affari, come si suol dire. Cioè avevano costituito insieme una specie di società per azioni o qualcosa del genere. Dunque due coppie di fratelli per di più associati fra loro. Come mai? Cosa vuol dire? Beh, carissimi, il significato mi sembra molto molto chiaro, lampante quasi. Primo, nella Chiesa dobbiamo sentirci tutti fratelli. Non c'è nessun cristiano di serie B e non c'è nessun prete di serie B. E chi si crede di serie A è sicuramente in errore, perché nessuno ha il monopolio della verità o della bravura del ministero. E del resto le anime non ci appartengono. Noi non siamo Gesù, anche se lo impersoniamo, ma non siamo Gesù. Siamo suoi semplici collaboratori. Poi, attenti, direi che sceglie due coppie di fratelli come primi discepoli e oltretutto associati fra loro, proprio per dire che dobbiamo sentirci tutti soci di una stessa impresa, in certo senso, Cioè tutti impegnati in una collaborazione reciproca per il raggiungimento di uno stesso obiettivo, di un obiettivo comune, che è quello appunto di unire le anime a Cristo, di mettere in comunicazione gli uomini con Cristo. Ecco, questa impresa naturalmente si chiama Chiesa. Chiesa cattolica, Chiesa universale. Ecco, sbaglia quel prete che crede di poter fare tutto da solo, sbaglia. Noi abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, anzitutto della collaborazione dei confratelli e poi della collaborazione dei laici, a ogni livello. E se nel campo di lavoro un prete si trovasse a essere effettivamente solo, causa forza maggiore, pensi che ci sono tante forze nascoste, invisibili, che lo stanno sostenendo, che lo stanno aiutando in questo suo lavoro. Tante forze invisibili, tante anime oranti, per esempio, tante anime sofferenti, che sono come delle colonne che sostengono il suo lavoro, il suo ministero. Ecco, Cristo ci vuole uniti. E oltretutto direi che essere uniti è anche la migliore presentazione, la migliore pubblicità che possiamo fare alla Chiesa, vero? E badate, dove si vive veramente questa fraternità sacerdotale? Credete pure che avvengono veri miracoli, provare per credere. Per cui la fraternità sacerdotale deve essere sentito come uno degli obiettivi massimi del nostro sacerdozio. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.